Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 10 agosto, buongiorno a tutte e a tutti da Antonella Cortese e in particolare alle persone che vivono nella casa circondariale della Dozza e in tutte le case circondariali della Regione Emilia-Romagna. Bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV, in onda, come ormai sapete tutti, su Radio Città Fuggito, Teletricolore e Lepida. È qui con me a condurre questo programma, oltre a Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che saluto subito e a cui do il benvenuto. Ciao Ignazio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Ci siamo, è agosto, eh? Vorremmo trasmettere da dentro a un carcere, non lo possiamo fare per ora, però è come se ci fossimo con le nostre voci, per essere vicine anche a tutti quelli che ci ascoltano da fuori. Ed è proprio così, e intanto ringraziamo ancora una volta chi ci ha aiutato ad essere qui. Quindi i donatori della campagna di crowdfunding che abbiamo appena concluso, ai quali dedicheremo poi i famosi premi materiali la prossima settimana. Intanto passiamo subito al sodo, Ignazio, di che si parla oggi? Allora, continuiamo una carrellata di lettere dal carcere. Che servono per costruire anche la cittadinanza, e oggi in particolare il tema che tratta Ilenia è quello del suo amatissimo teatro. Senti, ma dove nasce questa passione? Allora, leggo tra le sue mani, la lettera che mi scrive. Allora lei dice così, facciamo parlare direttamente. Mi piace scrivere, mi è sempre piaciuto ideare, ma circa 4 anni fa ho scoperto che amo incredibilmente interpretare e recitare. Mi piace calarmi in un'epoca che non è la mia, indossare abiti di scena come quelli utilizzati negli spettacoli in precedenza, nel Can-Can e altri, e Lady Macbeth. Adoro quando svanisce la timidezza e la riservatezza che caratterizza la mia personalità e la contraddistingue. In realtà l'attività teatrale, posso affermarlo, oggi a distanza di anni, mi ha difesa e guarita dal timore del giudizio altrui, dagli sguardi. Mi sento tutelata dal ruolo che interpreto nonostante il personaggio si differisca profondamente dal mio modo di essere. Ecco una spiegazione che può servire a tutti di come il teatro è liberatorio, facendoti calare in una parte che non è la tua e dandoti il modo di guardare la vita da un'altra angolatura. È un po' come vivere tante vite, no? Ma senti, come nasce il testo? Ilenia fa parte del gruppo di Paolo Billi, che anzi se ci ascolta lo salutiamo sempre, collaboratori, una delle colonne di Eduradio TV. Allora sentite, dice, solitamente il martedì pomeriggio, scrive Ilenia, come ogni giorno della settimana c'è la consegna della posta. Tutte attendono frementi in corridoio, le 13, orario approssimativo della consegna, ma per me è speciale perché arriva la mail del Teatro del Pratello con il compito di scrittura settimanale. E quindi dice che si comincia a scrivere, poi si condivide la lettura, se ne parla, ci confrontiamo per la comprensione, facciamo ipotesi, esempi, anche per aiutare le new entry. Poi ognuna scrive il proprio testo, lo leggiamo insieme e il tutto viene inoltrato sempre tramite mail al Teatro del Pratello, dove viene stampato e letto su Eduradio. Ecco che ci siamo noi. Quindi è un circolo virtuoso. Arriva il compito di scrittura, le signore ci pensano su, mettono insieme questo mosaico di idee, poi lo mandano, Paolo Billi li riceve, i suoi collaboratori, e poi viene messo in onda attraverso le onde di Eduradio TV. Vedete che bella compagnia teatrale. Ignazio, senti, però c'è stata anche la pandemia, diciamolo. Com'è possibile fare teatro in tempo di pandemia? Questo è proprio un po' quello che è stata l'ideazione del nostro progetto. Leggiamo ancora che cosa scrive Ilenia. In mancanza dell'attività teatrale in presenza, il contatto epistolare ha mantenuto alto e incrementato l'interesse per quest'arte, questa terapia individuale e di gruppo. E non perché è l'unico corso attivo, bensì perché è l'unico che rende operativa la mente, la manualità, accende l'emotività, la fantasia, la progettualità e la responsabilità verso quello che diventerà spettacolo. Ecco, questo è un grande testo che viene dal carcere, direi un inno alla bellezza e potenza del teatro. Qua siamo in tempo di film, di fiction, di effetti speciali. No, il teatro si basa sulle persone, sui corpi reali e sulle loro voci, e quindi scavalca il tempo e lo spazio attraverso i testi che si scrivono e si interpretano. Benissimo, Ignazio. Che cosa vogliamo dedicare a Ilenia? Perché a questo punto dedichiamo a lei il prossimo brano, giusto? Sì, oggi sì, mettiamo Ilenia, metterei dentro anche Andrea, un altro amico del carcere, con una grande cantante tunisina, visto che si parla di Tunisia in questi giorni, Emel Matlouthi, Kelmet Horra, La mia parola è libera. Ascoltiamolo. Riprendiamo la nostra trasmissione dopo aver ascoltato la bellissima canzone Kelmet Horra e parliamo dell'orto del carcere di Barcaglione, che diventa solidale. Abbiamo spesso parlato dell'importanza del reinserimento sociale del detenuto, che concretamente passa anche attraverso qualcosa di tangibile che viene poi restituito alla comunità. E ad Ancona si traduce ora con le donazioni di cibo e di prodotti dell'orto coltivati dai detenuti del carcere di Barcaglione destinate alle famiglie in difficoltà economica. A fine luglio la prima consegna al mercato dorico di Campagna Amica, quando la direttrice della struttura carceraria, Manuela Ceresani, ha incontrato la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, e l'assessore comunale ai servizi sociali, Emma Capogrossi, facendo scaricare sul posto mezzo quintale di ortofrutta. Quindi qualità chilometro zero, è come ci piace dire a noi, Ignazio. Noi parliamo sempre del chilometro zero, questa volta loro lo fanno sul serio, e non solo c'è il chilometro zero, ma c'è un alto valore sociale. Infatti vi leggo una cosa che ha scritto un detenuto di 35 anni. Dice: io mi sono avvicinato a questa attività, mi è piaciuta da subito, perché mi permette anche di imparare un lavoro. Ecco, questo è un altro punto molto importante da sottolineare. Poi dice: il prossimo febbraio finirò di scontare la mia pena e mi piacerebbe trovare un lavoro in agricoltura. Possiamo dare qualche dato? Quante persone sono coinvolte in questa attività? Eh sì, perché nel carcere di Barcaglione sono circa 60 i detenuti che si occupano, ovviamente in forma volontaria, dell'orto sociale. Il primo passo verso l'azienda agricola vera e propria, dove si producono olio extravergine di oliva dall'oliveto, miele dalle arnie e ultimamente anche formaggi e latte con un greggio di 20 pecore, penso un po', è il caseificio interno. Ora parte del raccolto dell'orto sociale andrà alle famiglie in difficoltà. E spiega la direttrice Ceresani che l'orto sociale è un'attività dell'istituto che con Coldiretti ha trovato una prima connessione con l'esterno. E poi ci saranno ulteriori sviluppi di condivisione con i cittadini di Ancona, un restituire del detenuto che con il suo lavoro rende qualcosa alla comunità. E questo è un altro esempio meraviglioso di sinergia. Un progetto che è diventato un modello di riferimento per tutta la regione, ha spiegato sempre la presidente Gardoni. E la solidarietà è un aspetto sul quale continueremo a concentrarci, perché l'agricoltura e il cibo sano ovviamente, possono essere elementi di appiglio e di fiducia per tante persone che oggi chiedono aiuto. E ovviamente è un'iniziativa che vede il sostegno di tantissime realtà, l'assessore Capogrossi è uno dei tanti, giustamente, dice che nel corso della pandemia ha dimostrato attenzione e sensibilità verso le famiglie più fragili, proprio la Coldiretti, già seguita dal comune, quindi già insomma in assistenza. E, queste sono comunque, come vi anticipavo, sinergie virtuose che ci auguriamo possano sempre di più avvenire, un ponte concreto, un prendersi cura l'uno dell'altro che dovrebbe essere sempre di più promosso. E poi c'è un'altra cosa, Ignazio, l'esigenza di impegnare il proprio tempo in modo fruttuoso in carcere è molto sentita. Il tempo della detenzione, se rimane vuoto, lascia spazi ai cattivi pensieri. E proprio in un'ottica di ritorno alla vita da libero è importante investire su di sé, magari anche imparando un mestiere nuovo. E noi nel nostro piccolo, se poi lo vuoi spiegare un attimo tu, proviamo a farlo anche con le nostre rubriche, giusto? Sì, noi stiamo cercando di fare questo. Non possiamo fare formazione professionale per radio, ovviamente, però possiamo dare delle idee, lavorare in un bar, in un ristorante, in una pizzeria, lavorare in una officina meccanica, dedicarsi alle api, all'agricoltura. Perché guardate, voi che ci ascoltate dalla città, adesso io parlo dalla parte del carcere, appunto, il lavoro scaccia i cattivi pensieri, ma le persone che sono in carcere hanno delle potenzialità umane straordinarie. Ci sono le persone che ribollono di idee, di progetti, hanno soltanto voglia di fare e voglia di fare bene. E le statistiche dicono che se tu a una persona consegni un lavoro e una professione, è molto, molto, molto difficile che si torni a delinquere. Quindi direi che questo è un messaggio forte che viene da quello che tu hai detto, Antonella, e noi come Eduradio e TV, attraverso CEFAL, anzitutto, ma anche attraverso ASPE e tanti altri, intendiamo dare una mano sul piano del lavoro. Benissimo, è proprio così. Intanto rimaniamo nelle Marche, Ignazio, perché io lancerei un brano del pianista Giovanni Allevi, che è appunto marcheggiano, che si chiama Back to Life, cioè Ritorno alla vita. Ascoltiamolo. Lasciamo il pianoforte di Giovanni Allevi per dare la parola alla nostra Caterina Bombarda e alla sua intervista a Franco Bonisoli. A te Caterina. Eccovi, bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Come ormai sapete bene, la nostra seconda parte di puntata ha un ospite. E in queste puntate estive di Liberi Dentro Eduradio TV io ho piacere di avere in questa redazione dalle lunghe distanze con noi Franco Bonisoli. Buongiorno Franco. Buongiorno e grazie. Franco è già intervenuto per la rubrica Constitution On Air diretta dai ragazzi del Poggeschi per il carcere lo scorso anno e sai già parte, diciamo, anche della nostra redazione. E Franco è ex detenuto, è stato membro negli anni 70 delle Brigate Rosse e partecipe del rapimento Moro il 16 marzo del 78. Ma da anni è impegnato in quello che è considerato il dialogo impossibile, ovvero il percorso di giustizia riparativa tra autore di reato e vittima. Franco, per cominciare la nostra chiacchierata, ti chiedo di andare indietro nei ricordi e raccontarmi le ragioni per cui scegliesti la lotta armata. Ok, proverò un'operazione di grande sintesi. Erano gli anni, fine anni 60, inizio anni 70, caratterizzati da grandi lotte sociali e un grande desiderio di trasformazione della società da parte di masse giovanili, in cui anch'io ho partecipato a queste. C'era una grande tensione sia a livello di quelle che noi ritenevamo delle grandi ingiustizie a livello del nostro paese e anche a livello internazionale. C'era questa tensione, attenzione, faccio l'esempio, una lotta contro la guerra in Vietnam che coinvolgeva un po' tutti i paesi, dall'America attraversava l'Europa fino al Giappone. Io ho partecipato giovanissimo in questo magma ribollente e al quale che prevedeva, diciamo, di cambiare lo stato di cose presenti e proprio chi deteneva il potere aveva delle risposte a queste richieste che spesso partivano in modo pacifico, sempre molto violente. Vabbè, la storia è cronaca, cioè c'è una cronaca molto dettagliata, fino ad arrivare, no, a un livello di violenza subdola che era stata quella tipica proprio delle bombe di Piazza Fontana, delle bombe di Piazza della Loggia, sui treni, no, organizzati da gruppi che erano fascisti, che poi in realtà poi si è visto che erano, in cui era coinvolte parti dello Stato. Di fronte a questo livello di violenza ho pensato, io come alcuni altri, che fosse necessario contrapporsi e organizzarsi in modo armato. E da qui la scelta della lotta armata, su modelli di rivoluzioni che c'erano stati nel mondo, su modelli dei gruppi guerriglieri rivoluzionari in America Latina, e dei miti di allora, del Che Guevara, i Tupamaros e gli altri, cominciamo e del mito anche della resistenza italiana, dei partigiani. Iniziamo a organizzare le piccole cellule armate e dare vita a questa organizzazione che si chiamava Brigate Rosse. Ho vissuto, questo ha voluto dire per me fare delle scelte di vita. A 19 anni sono andato clandestino, ho lasciato tutto quello che faceva parte della mia vita e sono andato clandestino a tempo pieno nelle Brigate Rosse, a cui poi sono stato ricercato dalla polizia fino 4 anni dopo di clandestinità, sono finito in carcere. Grazie Franco di aver ripescato tra le tue memorie anche tutti questi ricordi, però a un certo punto dopo dalla lotta armata ti sei anche naturalmente dissociato e ritorniamo su questo tra poco dopo la musica e restate in ascolto. Lanciato sopra i continenti e la locomotiva sembrava un mostro strano e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali e contro re e tiranni scoppiava nella via, bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori. Eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Abbiamo come ospite con noi Franco Bonisoli e il nostro argomento di oggi è il suo vissuto durante gli anni di piombo, la scelta della lotta armata. Una scelta dalla quale Franco ti sei dissociato e quali sono le ragioni che ti hanno portato a scegliere a un certo punto di non scegliere più la violenza. Allora sono, come dicevo prima, a un certo punto sono stato arrestato. E devo dire che quando sono stato anche in carcere i primi anni non ero assolutamente il carcere, ho vissuto carcere duro, durissimo, le carceri speciali di massima sicurezza, era stato costituito un circuito apposta per i detenuti considerati più pericolosi, ma più il carcere era duro più io continuavo a essere contro lo Stato. Perché forse era quasi il carcere duro, era quasi la riprova, no, di quell'aspetto repressivo dello Stato contro il quale noi ci eravamo organizzati in modo armato. Ho vissuto parecchi anni in carcere, ho subito molte condanne, avevo avuto addirittura 4 ergastoli e 105 anni di carcere, insomma, nei vari processi che ho avuto in giro per l'Italia, processi che si svolgevano anche in modo... dire sommario non è giusto, ma insomma diciamo che noi non ci difendevamo e quindi le condanne arrivavano sempre al massimo della pena ovunque andassi, ma ad un certo punto, qui purtroppo il tempo non c'è per descrivere, perché sarebbe bello raccontare proprio gli episodi, fu un momento in cui in un momento di grande chiusura, di separatezza, eccetera, ci fu l'apertura del dialogo da parte di un direttore che accettò di cambiare registro, modo di rapportarsi. Forse stava cambiando qualcosa anche a livello più generale. E sicuramente io ero più stanco e cominciai a non vedere più la possibilità del successo della nostra rivoluzione. Un insieme di fattori che a un certo punto mi portarono a una grossa crisi e a non credere più alla possibilità di continuare con quest'idea della lotta armata. E scelsi di cominciai a entrare in una profonda crisi, perché non fu facile accettare, era quasi stato più difficile scegliere di uscire che scegliere di entrare nella lotta armata. Però a un certo punto iniziai e feci questa scelta grazie ad alcuni compagni di pena, e organizzammo un grosso sciopero della fame, no? Deciso proprio, eravamo proprio decisi fino alla morte, ritenendo che non ci fosse più possibilità di vivere in quelle condizioni in carcere e non ci fosse più possibilità di un'uscita dignitosa, e quindi tanto valeva la pena scegliere come scelta di vita, decidere della propria vita paradossalmente morendo. Da lì si è innescato una mano tesa dal cappellano del carcere, totalmente inaspettata, e che ha cambiato un po', ha intanto dato la possibilità a noi di uscire vivi da quell'esperienza e soprattutto di uscire da quell'insieme di gabbie mentali che mi ero costruito negli anni e ricominciare una, quella che io chiamo una risalita dagli inferni terreni, iniziare a una risalita nel purgatorio. E su questi anni torneremo domani sempre con te come ospite nelle nostre puntate, e intanto suggerisco ai miei ascoltatori di andare sulla pagina, il canale YouTube di Liberi Dentro Edu Radio, per ripescare le interviste con te da parte di Constitution On Air, dove hai approfondito molto bene lo scorso anno questi tuoi anni di scelta della lotta armata e di e quello che ne è seguito. Quindi Liberi Dentro Edu Radio, il nostro canale YouTube, e noi ci rivediamo domani. Grazie Franco. Grazie a voi. Ed eccoci qua di nuovo e siamo in conclusione, in chiusura della trasmissione oggi. Però mi raccomando, continuate a stare con noi, perché tra pochissimo ci saranno due rubriche nuove, due rubriche interessanti. Una è fare università in carcere, perché studiare in carcere è importante, e un reportage dall'Isola d'Elba, un'intervista a insegnanti ed educatrici del carcere di Porto Azzurro. Abbiamo fatto un viaggio fuori porta. E intanto vi ricordiamo sempre che Liberi Dentro va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Città Fujiko, su Teletricolore e su Lepida TV. E ovviamente, mentre le rubriche oggi parliamo di, saranno sempre trasmesse nel weekend. Quindi vi facciamo compagnia tutta la settimana. Un caro saluto da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e Nea Flacco. Ciao! Liberi Dentro Edu Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.